Sunfa, come un camel, ho scambiato una vanga per un restel. Sunfa, come un camel, ho scambiato una vanga per un restel. E anche stasera son bello. Ma grava ban con whisky ban, una vecchia ban fernet. Ma grava ban con whisky ban, una vecchia ban fernet. Sunfa, sunfa, è come un camel, scambia una vanga per un restel. Sunfa, sunfa, è come un camel, scambia una vanga per un restel. E anche stasera son bel. Viaggi storto come un capen, e viaggi storto come un capen. Da manca un braulio che tanto le stesse, e son che a parla con la tazza del chess. Sunfa, sunfa, e come un camel, scambia una vanga per un restel. Sunfa, sunfa, e come un camel, scambia la vanga per un restel. E anche stasera son bello. Stasera su un...